tu canti benissimo il brasiliano e tutta la malinconia che c'è nelle canzoni la brasiliane. Saudade. Esatto. Quindi non so perché ti appartenga tanto, però ce l'hai. Mi appartiene tanto, sì. Difatti mi appartiene il Brasile come mi apparterrà, credo, il jazz. Chi? Il jazz. Ah, il jazz. Rassegna eventi. Buonasera. Buonasera dalla Trabocca. E buon 2020 a tutti e tutte voi, come potete sentire. Viva la The Wombat, viva Bobo Rondelli, viva il 2020, come dice il nostro buon Pierino Marrazzani, per un anno anticlericale. Ci ha mandato gli auguri, ho aperto la mail, l'ho letto ora proprio. Ricambiamo. Che succede? Nulla, sto spippolando un attimino i volumi perché sono un pochino arrugginito, infreddolito, ma sì, certo. Ok, infilo le mani nella grappa e mi scaldo. Dai, questo lo sentite è Mario, io sono Briccobaldo, anche se gracchio un po', secondo me sto un po', non lo so, suono strano. Abbiamo Delago in regia, abbiamo Gondalina, abbiamo gli autori di un film. Ecco, io ora non mi sento più. Perfetto, adesso ci sono. La tramonta. Radio Wombat, wombat.noblogs.org, sui social abbiamo la pagina Facebook, abbiamo Twitter, non abbiamo Instagram, ci potete ascoltare sul blog oppure sulle onde 1359M che finalmente, si può dire, sono tornate a funzionare come devono, a modino, eh? Per benino, a modino. Hai notato il mio intervento? Sì, utilissimo, finalizzatore incredibile. Io faccio l'ascoltatore. Qui per questo. Di cosa parlate oggi? Allora, oggi parliamo. Intanto facciamo una rassegna degli eventi. Però prima una cosa va detta, perché questo 2020 è iniziato con una brutta notizia. Una brutta notizia, o almeno, diciamo, per ora lo possiamo leggere così, ma poi magari c'è qualcuno qua in regia che ci può aiutare anche un po' a capire cosa è successo. Dalla pagina di Urania Squat, che ve la dico anche, Urania, aspettate che la trovo. Urania Queer Squad, c'è un comunicato che risale a qualche giorno fa che annuncia tutto continua verso altri pianeti. Questo era un comunicato del 7 di gennaio. Fondamentalmente annunciano che hanno lasciato lo spazio per vari motivi. C'è un po' un comunicato che è un ricapitolo di quello che sono stati questi 7 mesi di occupazione. Era fine maggio quando è stata occupata, con dei motivi ben precisi, in un posto ben preciso, e ha vissuto, insomma, 7 mesi, direi, pieni di eventi, pieni di cose, pieni di cortei, ci sono stati presidi, c'è stato molto movimento da un punto di vista transfemminista queer. Abbiamo qui con noi una persona che ha frequentato molto assiduamente. Dai, dici un po' che cosa è successo. Ciao intanto. Ciao. Allora, sì, beh, l'esperienza di Urania è finita, ma non è finita, nel senso che tutte le individualità che l'hanno attraversata, e sarebbe lungo, veramente tedioso fare la lista, e si sono così, si stanno in realtà ricompattando, riprogettando, rifocalizzando in un percorso ancora un po' da definire, ma che appunto parte dall'esperienza del collettivo Squirt e poi dell'occupazione di Urania, e per appunto affrontare nuovamente i temi che poi mai sono stati abbandonati, soprattutto in un momento così caldo, purtroppo, direi. Domenica, tra l'altro, da pochi giorni fa a Lucca c'è stata un'aggressione omofoba molto molto grave a un locale, e in generale non passa giorno che così che l'omofobia, il sessismo e tutto quanto, e tutto quello a cui poi questo è collegato, si presentano, si manifestano in varie forme nella nostra città e in tutte le altre in Italia, nel mondo in generale. Per cui tutti quelli che hanno partecipato all'esperienza del transfemminista LGBTQ di Urania si proiettano in avanti e, come dire, dire, rimangono sul pezzo e provano a così a continuare a comunicare, continuare a fare iniziative. Sì, e... fondamentalmente è un, quello che hanno scritto è un comunicato, anche un'autocritica su quello che è stato fatto. Loro dicono, scusate, è un'autocritica un po' postuma, un po' in ritardo, forse serviva prima. Avete sentito, è arrivato lo zio regia, siamo in diretta, caro, buonasera, buonasera. Benvenuto. Però insomma anche ci sono anche alcuni punti che loro mettono come estremamente positivi, che cose, risultati ottenuti che mai si sarebbero aspettati, di integrazione, di avvicinamento, di dialogo e di politica, ecco, con persone, soggetti che veramente solitamente non vengono mai intercettati dagli spazi liberati. Sì. Quindi bene. Sì, beh, appunto così ho dato un po' per scontato che un po' tutti ormai abbiano letto il comunicato. In generale forse adesso è più utile concentrarsi sul futuro piuttosto che sul passato, almeno sì. Io la vedo un po' così, soprattutto su questi temi che, ahimè, spesso vengono dati appunto per assodati, per scontati, soprattutto in un periodo in cui il femminismo in generale è tutto molto, no? Sembra tutto molto accettato, tutto molto, no? Politically correct. In realtà è tutto anche molto affrontato superficialmente e spesso le persone non si rendono conto che anche se pare tutto sdoganato, anche se certi temi sembrano colpire l'attenzione mass mediatica, in realtà nella vita di chi vive la propria individualità in maniera non binaria e di chi non ha ancora i diritti che sono dati per scontati per gli esseri normati, questo è anche ancora una lotta davvero da combattere, che non riguarda soltanto le individualità LGBTQ, ma appunto abbraccia tutto un sentire che dovrebbe essere, sì, insomma. No, infatti appunto chissà come andrà a finire, nel senso come continuerà la storia di Urania e della Squirt. Magari io ti vorrei chiedere dove possiamo seguirlo, perché a questo allora, punto innanzitutto, c'è un'assemblea, sì, ci sarà un'assemblea. Ci sono degli incontri che vengono tenuti, il giorno è da stabilire, però vengono tenuti in zona Isolotto, proprio perché Urania era lì, un circolo Arci di via Maccaro all'Isolotto. La riunione delle persone si stanno ritrovando non è più a nome Squirt, almeno non so se riprenderà questo nome, questa identità, perché ci sono appunto tante novità, tante persone nuove. E per chi fosse interessato può scrivere, perché no, a Radio Wombat e gli verrà inserito nella mail list o nella ricordiamolo posta wombat @insiberia.net per avere informazioni su questo nuovo percorso. Dai. Ricordiamo anche che 2 settimane fa e 3 avevamo proprio ospiti l'Urania Squat qui con noi a raccontarci il percorso e anche di alcune aggressioni appunto avvenute a Firenze purtroppo negli ultimi tempi. Anche il blog di Urania, ovviamente ora non mi ricordo esattamente. Urania Queer Squat. Esatto. Urania Queer Squat. Sì. Squat. Su cui verranno pubblicate le iniziative e gli appuntamenti. Dai, sei preparatissimo, amico mio. Dai, bravo, bravo, bravo. Dai, oh, pezzaccio e andiamo con la rassegna. Dai, dai, dai, dai. Wombat. Thank you. con la voce di Tom Waits di sottofondo. Iniziamo la rassegna degli eventi riconosciuto settimanale. Eh sì, che l'ho riconosciuto. Dalla punta.org, tutti e tutte sanno che cos'è la punta.org oramai a questo punto, e tanti stanno iniziando a pubblicarci un sacco di cose. Un sacco di cose belle che il nostro buon Mario inizierà a raccontarci a partire da oggi, lunedì. No, da domani, vecchio domani. Mio, dal 14 gennaio, dalle ore 15, alla Regione Toscana, in via Cavour, un presidio indetto a seguito di una multa da 4.000 euro commutata a 21 operai accusati di blocco stradale a Prato, un reato introdotto dal decreto sicurezza dell'ex ministro Salvini. La Regione Toscana è chiamata ad esprimersi nel merito e quindi alle ore 15 di domani in via Cavour sotto il consiglio regionale un presidio, in attesa poi dell'evento di sabato di cui parleremo fra molto poco. Invece, andando a giovedì 16 gennaio, dalle 20 a mezzanotte e mezzo, presso gli spazi della polveriera Spazio Comune, in via di Santa Reparata 12R, abbiamo la Garufa Polverosa, che è, cos'è? Una serata di tango all'insegna del divertimento e della buona compagnia, aperto a principianti e curiosi. Chi non ha mai ballato troverà un abbraccio disposto a guidarlo nei primi passi. Ci sarà un aperitivo dalle 20 e dalle 21 si inizia con il tango. Il tutto si svolgerà nella sala interna, quindi bisogna portare scarpe comode e abbracci caldi. Non mancheremo. Eh sì. Andiamo a sabato 18 gennaio, alle ore 15 si parte dalla stazione di Santa Maria Novella, tutti assieme per raggiungere Prato. Perché Prato sta con gli operai per la cancellazione delle 21 multe da 4.000 euro contro gli operai che hanno partecipato allo sciopero alla tintoria superlativa. È successo che i lavoratori della tintoria superlativa hanno scioperato contro il lavoro nero. Turni di 12 ore per 7 giorni la settimana. Negazione delle ferie, delle malattie e di tutti i diritti minimi previsti dalle leggi. Non ricevono inoltre lo stipendio da 7 mesi. Hanno pensato bene di scioperare e si è pensato bene di commutare loro, appunto per blocco stradale, multe da 4.000 euro. Contro questo, manifestazione. Questo sabato ritrovo alle ore 15 da Santa Maria Novella. Sì, fra l'altro, per inciso, ho visto che c'è anche un crowdfunding, cioè una raccolta fondi per coprire le spese di queste multe. La troviamo? La troviamo, sì, la troviamo su internet. Ora la ricerco poi. E fra poco lo diciamo. Fra un po' si dice. Dai. Sempre sabato 18 gennaio dalle 17.30 alle 20.30 al Giardino dei Ciliegi in via dell'Agnolo 5, non uno di meno, organizza una mostra Alza il triangolo al cielo, che raccoglie materiali di archivio sui movimenti delle donne in Italia a partire dal 1968, dalle 17.30 appunto al Giardino dei Ciliegi. E si finisce la serata e la settimana in bellezza all'Ex Emerson con l'Hip Hop Night, sabato 18 gennaio dalle ore 20 fino alle 2, Doris, BTM e Sakatana, scusate, Adlago, Sakatana. Non abbiamo altro in programma per questa settimana, ma rimandiamo al solito gli appuntamenti che via via verranno caricati sul sito lapunta.org. Sì, sempre andando alla raccolta fondi per i lavoratori, ce ne sono più di una, anzi ho scoperto, perché ve ne è una che è su produzionedalbasso.com, raccolta fondi lavoratori di Prato, e poi ve ne è un'altra. Scegliete voi. Senti amico mio, ci è venuta così questa rassegna stampa quest'oggi, dovevamo un pochino riprenderci dal... Sì, ma dai, inizio anno, ancora la punta è un po' scarna, eh. Vabbè, ma l'anno va tantissime cose. Come? L'anno va iniziato per bene. L'anno va iniziato per bene, ma infatti sono eventi tutti di livello. Siamo noi che siamo marci. È così, raga. È lunedì pomeriggio, d'altronde. Bene, allora, prima avevamo messo un pezzo che si chiamava Festone, adesso mettiamo un altro pezzo strano che si intitola Super West Ale, chissà che ci introduce a cosa? Ma vediamo cosa dopo, va. Wombat. Wombat. Wombat. Wombat. Wombat. Wombat. 13,59 anni. Dai. Cartine. Filtrini. Wombat. Finalmente, dopo un anno di silenzio, perché già c'era stata un'incursione nella tana del Wombat di un signore che ho davanti, che voi non potete vedere, che è molto bello. Sì, è vero. Ha un bel cappello, posso dirti, ha una bella maglia, ha un bel giubbotto, ha una bella barba, ha un bel naso. Non scendiamo troppo. E chi è? E chi è? E chi è? È Mr. Alessio Nencioni. Salve a tutti. Salve a tutti. Andiamo. E chi è Alessio Nencioni, vi chiederete, giustamente? Ah, me lo pone a me la domanda. Certo, chi sei? Beh, sono un ragazzo affascinante, come ho detto prima. Però ci siamo. Oggi ricopro una funzione ufficiale di regista istituzionale. E abbiamo qui anche una signorina aiuto regista. Una fantastica aiuto regista. Che come si chiama? Dicelo tu. Io mi chiamo Gwendalina. Ciao Gwendalina. Va bene, ok. Parlerò il meno possibile. No, no, no, faremo domande solo a te tanto. Sappino. L'importante è che parli vicino al microfono. Top, perfetto, grazie. Allora, siamo qui perché questa è la rassegna eventi, tutte queste cose qua. Settimana prossima, quindi non è rientrata ancora nella rassegna eventi standard, il 21 gennaio ci sarà l'anteprima di un film indipendente, super indipendente, ma indipendentissimo, super bellissimo. A bestia proprio. Che si chiama Godante Go Go Go. Sì, esatto, proprio vero. Il 21 è un evento incredibile, dopo 3 anni di lavoro ce l'abbiamo fatta, lo presentiamo in anteprima assoluta mondiale al cinema La Compagnia di Firenze in via Cavour, quindi se siete all'ascolto venite in massa alle ore 21 tutti al cinema, perché l'evento è imperdibile. Ecco, detto, è detto così. Potrebbe essere un jingle detto così. Ma è Godante Go Go Go, è un film indipendente per davvero o è un film indipendente all'americana con tipo $100,000? Beh, oh, mi fa piacere fatto questa domanda, è che noi siamo oltre l'indipendenza. Ah, cioè, perfetto. No, davvero, non abbiamo avuto purtroppo l'aiuto di quasi nessuno, soprattutto l'aiuto economico di nessuno, se lo possiamo dire. Quindi ci siamo fatti tutto da soli, dalla sceneggiatura fino alla colonna sonora. Tutto originale, è tutto frutto del nostro ingegno e del nostro sangue. E del nostro sangue, brava Wenda. Ecco. Che ricordiamo, aiuto regia, da che mondo è mondo, è tipo il mestiere più infame che c'è. Tipo. Sì. No, allora, passo. Voglio dire una cosa su Gwendalina, se mi permetti. Vai. Gwendalina è stata una delle colonne portanti del film. Senza Gwendalina, probabilmente il film non sarebbe esistito. Quindi, no, ci sarebbe stato, ma sarebbe stato più brutto. Ma eccola. Vabbè, però comunque non è il primo film che fai, giusto? Lo so tutti. È il quarto. Bravo, sei l'unico che sa che è il quarto. E so anche l'ordine degli altri film. Sentiamo. Allora, aspetta. Mi sono scordato. Sì, certo. La laguna, il mostro della laguna, no. Il lago nero 3. Il lago nero 3, bravo, esatto, già forato. Bravo. Poi, verso Orione. Esatto. Verso Orione. E Possessione demoniaca. Che è ormai un classico, il Possessione demoniaca. Quello è un vero classico. L'ho già visto tipo 3 volte. Sì. Molto divertente. Ma è tipo una contro una per due, insomma. A Natale la Rai non manda. A Natale la torna. E che generi erano questi film? Allora, diciamo, il Lago Nero 3 era un horror trash veramente assurdo, perché conta l'abbiamo girato alla fine senza sceneggiatura, cioè andavamo nel bosco un gruppo, così all'impronta, e improvvisavamo qualcosa, quindi cioè era qualcosa davvero aberrante. Comunque è andato a vederlo, cioè l'ho caricato tutto. Quanti anni fa? Quando l'hai fatto? Non ricordo. 10, forse 10. Come fa a saperlo lei? Sei informata qui, gli Wombat sono svegli e si informano delle cose. E poi Verso Orione invece è un film tutto in rima, incredibile, cioè anche questo è un'assurdità, girato in casolari abbandonati toscani, abbiamo rischiato di morire, un film in costume tutto in rima, ambientato in casolari fatiscenti. Cioè, bello, ma in costume di cosa? È in costume, non lo so, cioè nel senso... Post-apocalittici? No, era in costumi inventati. Concettuali. Sì. Po'... È un film assurdo, sì, lo consiglio per gli intellettuali che ci ascoltano. Wonderful, sì. Così ti puoi toccare la barba e far finta di essere intelligente. Sì, toccatevi la barba e insomma quello che volete. E poi Possessione demoniaca, grande ritorno horror. Sì, sono tornato all'horror con un grande classico, Possessione demoniaca. Cioè il nome dice già tutto, quindi sì, non c'è bisogno di aggiungere altro. È un titolo effettivamente da grande classico, cioè, tutti, Possessione demoniaca tutti l'hanno lo conoscono tutti ormai, certo. Fermate qualcuno per la strada e chiedetelo. E invece arriviamo a Godante Go Go Go, che è una commedia. Allora, Godante Go Go Go è una commedia di base, cioè parla, se posso dirlo in due parole, di un regista, è un po' autobiografico, è molto metacinematografico, perché parla di un regista sfigatissimo che decide, per una sorta di rivalsa personale nei confronti di varie situazioni, di partecipare a un concorso di cortometraggio che consta di 10 categorie. Una per genere, ci sono 10 categorie, lui ha un colpo di testa, decide di partecipare a tutte e 10 le categorie e inizia, quindi ha meno di un mese per farlo, raccatta una truppa di casi umani come lui e inizia a girare questa roba. Quindi c'è un horror, un western, il western l'avete sentito prima, la colonna sonora, c'è un film d'animazione, insomma è davvero una sorta di epopea micidiale. Un'esperienza unica e indimenticabile. Sì, è davvero. Super curiosi, super curiosi. E fra l'altro è divertente, cioè, voi l'hai girato in zone tutte intorno a Firenze più o meno? Noi l'abbiamo girato in prevalenza a Firenze e provincia. L'abbiamo girato, ora qui visto che siamo in una zona non possiamo dire, però diciamo è su Firenze, abbiamo girato nei principali centri autogestiti fiorentini, per citare alcuni, CPA, Emerson, La Polveriera, quindi anche grazie a questi spazi noi siamo riusciti a finire il film, perché una cosa non scontata è trovare gli spazi per girare, soprattutto spazi gratuiti. Non è così scontato per filmmaker indipendenti, anzi è difficilissimo. Quindi io ringrazio tutti gli spazi autogestiti e anche l'unica istituzione ci ha dato una mano, il comune di Montelupo, che ci ha dato uno spazio molto importante, dove l'abbiamo trasformato negli studios di Montelupo. Quindi grazie infinite. Bello, l'ho anche visti, perché io, grande rivelazione, però ci ho avuto anche io a che fare con questo film, Drago, era già stato detto forse l'anno scorso, però va bene lo stesso, mi sbrodo un po'. Sì, Drago è stato tra i nostri, è stato, quando si svegliava, insomma, era molto utile. Non è vero, non è vero, diciamo, io ricordo che ho, come si dice, risolto una situazione in cui eravate un po' incappati, non riuscivo ad andare avanti. Era una questione di luce, quindi mi sono appeso per mettere. Non te lo ricordi? Non me lo ricordo. Lo so che non te lo ricordi. Però li rimuovi. Io mi fido di te. Fai male. Fai molto male. E attori professionisti? Allora, attori, abbiamo una crew di attori veramente numerosa. Per essere un progetto indipendente, davvero tanti attori. Abbiamo sia professionisti che attori letteralmente rapiti dalla strada, se vogliamo, cioè proprio con la forza quasi. E cioè, tanta gente era la prima volta che si cimentava la cinepresa, però alcuni, come il nostro mitico protagonista Giacomo Dominici, è un attore ormai affermato, si può dire, su Firenze. Sul pezzo. Quindi è molto sul pezzo. Sì, anche troppo, anche troppo, Giacomo, se ci senti, anche troppo sul pezzo. Che facciamo? Andiamo con un pezzaccio? Sì, pausa e poi riprendiamo. Pezzaccio la... sempre dalla colonna sonora? Come no. Certo. Che pezzaccio è? Dante Inferno. Dante's Inferno. Yeah. Centro sociale con gli sponsor, lavarti nelle mani come pozzo. Occhi, sputo più merda che posso. La mia sincerità la chiami stronzo. Sciocco, dove che vai? Quante ne sai? Vi faccio il culo ma non faccio grind. Palleggio questa merda come Ronnie. Conosco bene i miei bull pocket, poche le chance che ho. Ma fumo più canne che a blu. Dore mi fa sola. Gente fa po po po po po po po. Vogliono fare gli originali. Guardami ma mi vado senza mani. Sciolgo anche i cani. Tranquillo che sono bravi, sbranano solo se cai. Il cazzo pesa miei brani. Di tutti questi fratelli, rimasti solo i brandelli. Fanno i belli davanti a una cam, nel cervello è finito la ram. Colpi in faccia tipo Van Damme, girando giù in valle gridando lo top. Penso nell'inferno di Dante, storia scema al mondo poi quando. Rotto il culo senza mutande, filosofia mutante. Perso negli inferi, dove non ci sono limiti. Credi nel dio degli spiriti, qual è la merda che imiti? Penso nell'inferno di Dante, storia scema al mondo poi quando. Rotto il culo senza mutande, filosofia mutante. Perso negli inferi, dove non ci sono limiti. Credi nel dio degli spiriti, qual è la merda che imiti? C'è un pazzo che grida monfaia, Lilli Puzzani coi Giant. Polli drogati nell'aia, regalo cartelle Equitalia. Sono colpi dietro la schiena, compassi da Macarena. Non seguo molto la scena, troppo giù dall'ultima cena. Se in piedi picciotti a tavolo il boss, mangia la terra di Roland Garros. Stai svisionando se mi chiami bro, l'effetto di funghi di Mario Bros. La mia gente non serve padrone di niente, facciamo una fama evidente. Tutti qui seguono l'onnipotente, ma Dio non mi pare un ragazzo credente. Penso nell'inferno di Dante, storia scema al mondo poi quando. Rotto il culo senza mutande, filosofia mutante. Perso negli inferi, dove non ci sono limiti. Credi nel dio degli spiriti, qual è la merda che imiti? Perso nell'inferno di Dante, storia scema al mondo poi quando. Rotto il culo senza mutande, filosofia mutante. Perso negli inferi, dove non ci sono limiti. Credi nel dio degli spiriti, qual è la merda che imiti? Avete appena sentito Alessio Nencioni, DJ. No, giusto, era la tua la base. diciamo, la base l'abbiamo fatta insieme a Matteo Ficozzi per Antonio alias Careca. Chi è Matteo Ficozzi? Matteo Ficozzi è il fratello di Filippo Ficozzi. Filippo Ficozzi è il direttore della fotografia del film, mentre il fratello Matteo mi ha aiutato nella composizione delle colonne sonore originali, che infatti è stato abbiamo fatto tutto da noi, davvero. Le colonne sonore sono originali, a parte qualche pezzo di qualche gruppo, però il resto l'abbiamo fatto tutto io e il buon Matteo Ficozzi. Fiore all'occhiello, ma escirà anche un bel vinile, forse chi lo sa, ora non possiamo sbilanciarci, però chi lo sa. Comunque ricordiamolo, cioè il film è in anteprima e poi non ci saranno molte altre possibilità di vederlo. Bravo Dlago, esatto, ecco. Allora, questa è una cosa molto importante, adesso il pezzo, ragazzi, come fa? Cioè, che gli data questo figlione? Allora, Drago ha detto una cosa importantissima, mi stavo per dimenticare. È importante perché il 21 è un'anteprima e non sono previste altre proiezioni, perché dopo ci concentreremo dal 22 sui festival. Quindi dovremmo far diciamo lavorare il film sui festival. Quindi io prevedo una distribuzione anche per il film, non solo fare tutto da soli, ma cercare di sbolognarlo a un certo punto a qualcuno. Magari di farlo andare, sbolognarlo e termine. Una bella pacca sulla spalla e ci dice: bravi, fino a qui tutto ok e ora basta. Quindi speriamo di trovare qualcuno e magari lo distribuisca e lo faccia uscire, perché questa è un'anteprima, cioè è prima della prima, quindi è importante, roba importante, roba importante. Alla compagnia, ricordiamo, 21 gennaio, ore 21. Ore 21. Qui c'è un'intervistatrice seria? Seria? Anche questa canzone fa parte della colonna sonora? Non abbiamo potuto comprare diritti. Ah, ma ecco perché tutte le canzoni originali, era per esatto, quello, per risparmiare. Era tutto indipendente, tutto esatto. Originale. E cosa vogliamo sapere su questo bello film? Allora, innanzitutto Drago mi ha già bruciato mezze domande, ma ha detto al solito, perché qui è vero, si sul femminismo e cose, poi vanno avanti sempre loro. Comunque, dai, scemo. E va bene, io sono una fan, un'ammiratrice, e volevo anche ho notato il così le colonne musiche te le fai da solo come Carpenter, spero che apprezzerai. Sì, grazie mille. E sì, in realtà la domanda me l'ha un po' bruciata Drago, che era appunto sul percorso che adesso il film prenderà, quindi di distribuzione e di eventuali festival. No, è stata Gwenda a bruciarti allora tutto. Ma lei può. E va bene, in realtà appunto questo tuo ultimo lavoro si approccia a tutti i vari generi, no? E quindi niente, ti sei dovuto confrontare un po' con tutti i generi, però mi pare di capire, anche da quello che ho letto quando studiavo, che in realtà l'horror è un po' il tuo, forse è quello che ti... così allora. Che ti risponde di più, che ti piace più. Ho letto una frase che mi è piaciuta tantissimo, che è appunto: l'horror è il punk del cinema. E da amante del punk e da ammalata di cinema ho apprezzato tantissimo. Diciamo, è incredibile, lei ha studiato, no? Come caproni. La nostra coppia funziona così, la parte. Quella che studia lui le fa bella figura. Tanto per tornare al femminismo. Ok, allora ha detto un grande Drago, c'è sempre una donna che studia. Sempre una grande della persona. Allora sì, questa sì è una bella frase, non so, forse l'ho rubata a qualcuno. Va bene, però è bella, mi piace. Però sì, perché diciamo che l'horror è sempre stato diciamo un genere molto adatto per chi è povero, certo. E perché ti consente di fare qualcosa di divertente con poche risorse, quindi non sono certo il primo regista, non sarò l'ultimo e si cimenta in questo genere proprio perché allora, visto che siamo poveri non ci si guadagna niente, almeno divertiamoci un pochino, sì. E facciamo anche mostro incredibile, diceva anche sì, facciamogli uccidere qualche dono, almeno si vede un po' di sangue, quantomeno un po' di budella finta. Ha fatto bene a farmi questa domanda, perché in Go Dante Go Go Go c'è un bel segmento horror, quindi forse il segmento horror è il segmento più lungo, e si chiama, ve lo annuncio, Extreme Fishing, ed è bellissimo. Ciao. Una bomba. Ma perché ogni corto giustamente sarà, cioè ogni corto interno al film è a sé stante, nel senso verrà presentato ogni volta corto. Allora non sempre, quindi alcune volte volte sì, quindi parte il corto come un film nel film, altre volte ci sono loro e cercano di girare il corto, quindi oh, che bello. Sì, è un po' così, un po' a mosaico, non si sa bene quello succede. E quindi quando giravate c'era la situazione un po' alla Boris, tipo della troupe sì. Vera che riprende la troupe finta. Esatto. Sì, è tutto. Se posso dire una cosa, io penso che il mio più grosso rimpianto in questi 3 anni sia stato il fatto che non ho fatto un backstage di tutto. Sì. Perché penso possa essere forse la parte penso certo. Più bello. Sì, era ancora meglio. Rumori fuori scena comunque. Sì. Sì, comunque abbiamo imparato che prossimo film si farà un backstage. Sì, sicuramente verrebbe qualcosa di assurdo da vedere. Sì, si potrebbe fare anche a posteriori, ad esempio meta cinematografico, il backstage. Sì, ma poi ci arrestano, no? C'è un limite, no? Ragazzi si entusiasmano, sono pazzi. Va bene, altra domanda intelligente. Aiuto. Mi sono persa. Sì, allora, io volevo sapere appunto la crew con cui hai lavorato in questi ultimi 3 anni e poi, come dire, immagino che poi si sia andata allargando, come sempre succede, abbia inserito vari elementi, però è stato così un progetto particolare per te a sé o pensi nel tuo futuro di riusare questo metodo? Allora, diciamo che la crew si è creata negli anni, perché okay. Noi allora Godante Go Go Go ci abbiamo messo 3 anni per girarlo, pensate. Siamo partiti con la squadra di Possessione Demoniaca, mm-hmm. che è stata ampliata. Diciamo, io tutte le volte faccio i casting sia per trovare gli attori, e sia per trovare appunto il comparto tecnico. Quindi, per esempio, ho avuto la fortuna 3 anni fa che venisse a uno dei casting, tra l'altro all'Oblap, se non mi ricordo male, la bellissima e bravissima Gwendalina. No, qui dove? No, qui no, non si può dire. Ma nella tana del Wombat spesso okay. si organizzano briefing. Diciamo, nella tana del Wombat c'è stato un casting ed è arrivato la Gwendalina Mannini. Incredibile. Io ovviamente appena arrivata, cioè l'ho presa immediatamente, anche perché c'è una ragazza che si presentava. Diciamo che mi hai fatto un bello scherzo, te lo ricordi? No, non mi ricordo. Io non so per quale motivo ci avessi un curriculum nella borsa, poi darlo a te è totalmente inutile, però gli ho dato un curriculum con la mia faccia. Grande. E lui si è messo a disegnare i baffi sulla mia foto del curriculum. E la cosa che lui ha colpito, mi racconto dopo, era il fatto che io ero totalmente, cioè non mi accorsi neanche di questa cosa. Ovvio. Sì, quello faceva parte del test, capito? Perché io gli ho fatto i baffi per vedere, ora vediamo questa, se si incazza c'è qualche problema, perché sai, non me ne ero nemmeno accorta io. I registi sono così, cioè roba veramente, sono tremendi, lo sai. Sì. Però devo dire, davvero, la squadra è fondamentale, perché ora i film non si fanno da soli, quindi che ne dica la gente col telefono, cioè, la squadra è fondamentale, quindi davvero trovare persone come Gwendalina, trovare persone come Filippo Fiozzi eccetera eccetera è poi vitale. Venne anche con Giulio Melani a quel, anche se te non te lo ricordi, però c'era anche Giulio Melani, poverino. Sì, Giulio Melani che è un'altra è l'aiuto come lo possiamo definire, aiutami, fotografia, è un aiuto al comparto fotografico, quindi se ci ascolta ciao. E davvero è stata una sfida, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo costruito quindi una piccola troupe. Io spererei di continuare a lavorare però in questo modo, però senza soldi è sempre più dura. Io ho perso 3 anni di vita, ciao. E in 3 anni si perdono tante cose anche, ed è difficile, però insomma siamo qui, quindi tutto bene per ora. Beh, ma noi avremo un'occasione di godere di tutto ciò che hai perso, spero, infatti, questo 21 gennaio. Io ti volevo fare un'altra domanda, sì. Però posso? Certo. 2 domande. Sì. La prima, qua sotto vedo un sacco di cose, sotto la locandina, sì. Tra cui un gruppo di nostri amici, Speed Kills, che abbiamo avuto il piacere di ospitare anche qua ai microfoni di Radio Wombat e... Sì, allora gli Speed Kills sono un gruppo thrash metal, speed metal della Fiorentini. Io li ho contattati perché volevo dei loro pezzi nella colonna sonora. Loro hanno detto subito sì. Quindi i loro pezzi li trovate soprattutto nel segmento delle arti marziali, perché noi abbiamo anche un film d'arti marziali dentro il film. Sì. E parte da una sonora pazzesca. Metal e in più gli Speed Kills hanno realizzato insieme a me, cioè un pezzo che avevo scritto io che si intitola Satana sei il migliore, che dovresti avere in scaletta, e quindi abbiamo fatto insieme a loro Satana sei il migliore. Io sono nel coro, forse mi sentirete. E io li voglio ringraziare perché si stanno facendo anche in quattro per promuovere l'evento. Quindi i Speed Kids sono davvero, cioè, fantastici, non c'è che dire. Grandi, lunga vita, ma infatti ci associamo. Ma mentre cerco la canzone appunto da mettere, l'ultima domanda che io ti volevo fare era sulla copertina o sì, bravo. Sulla locandina, vedo un bel caprone con una GoPro in testa. Ecco, anche allora, davvero, io voglio dire una cosa, su Radio Wombat avevi fatto le domande più intelligenti. No, davvero, no, di solito, cioè, sì, la gente sì, si ma l'avevi detto già a Lungarno, lo dico sempre, sì. Ah, vabbè, allora ma sgamato, ma sgamato. Però nessuno mi aveva chiesto della locandina, eh. Questo che lo devo bellissima. Dire. Allora, devo dire, la locandina, io non mi sentirà mai perché sarà al lavoro, eccetera. Luca Lenci è un disegnatore di Lucca. Gli ho chiesto di fare questa locandina. Lui è partito con questo progetto assurdo. Che se vi capita, guardatelo, perché e si è ispirato ad uno dei momenti più salienti del film. Dove, però, non so se dirlo. No, non dirlo, non lo dico. Non dirlo perché nelle altre interviste è stato un po' spoilerato. Io te lo dico. Ah, sì? Cioè, non è stato detto niente di quello, diciamo, che c'è. Allora, voglio dire questo. Allora, nel nostro film c'è diciamo la prima scena di un film girato da esseri non umani. Quindi esatto. Fate voi. Che gioia. Che gioia. Non male, non male, non male. Ah, non abbiamo maltrattato nessuna esseri forma di vita, eh. Anzi hanno mangiato di più. Solo gli del umani solito. Hanno maltrattato, non gli animali. Molto bene. Gli umani li ha maltrattati, sì. Sì, gli umani sì, se lo meritano, se lo meritano. Sempre. È giusto. E cosa facciamo? Andiamo con una canzone? No, altra domanda. No. No, mi piace molto questo approccio cormaniano al cinema e al tuo cinema. E infatti ti volevo chiedere, la domanda classica, però è perché davvero sono curiosa sia a te che a lei. E, visto che appunto hai esplorato tutti i generi, poi anche se abbiamo capito insomma dove pendi e qual è quello che ti piace di più. E ci sono un sacco di registi che hanno lavorato così, no? Esplorando il metacinema in maniera comica, alla Mel Brooks o veramente alla anni 90, alla Kevin Smith, eccetera. Qual è? Cioè, ci sono dei registi, ovviamente ce ne avrai mille come tutti noi, però ci sono dei registi che ti hanno accompagnato, a cui ti ispiri, a cui pensi, e anche no, magari, però se sì, perché. Allora, questa domanda è sempre terribile perché non so mai rispondere. Allora, io davvero guardo di tutto, davvero, non è per dire, ma mi piace il film di serie B, mi piace il film d'autore, mi piace la mattonata polacca, si cerca di guardare tutto e penso che questa cosa si senta anche in Godante Go Go Go, dove c'è davvero un po' di tutto, dove c'è il momento magari un po' più lirico, il momento un po' più aperto e poi c'è anche il momento un po' più truce, dove le budella di finta escano fuori, tutto. Insomma, te non so che ne dici, Gwenda. Allora, no, io non ho nessun tipo di... Non l'ho fatto io sto film, cioè nel senso... Vabbè, non ci interessa, allora, i gusti. L'ha scritto Alessio e ha fatto la regia lui, io sono stata piuttosto dietro a cercare di far... il tutto. Sì, ma ai ragazzi che cercavano di fare i ruoli tecnici, anche a degli attori un pochino più, diciamo, borderline. Quindi tutta la parte che vedete artistica è collegabile a soltanto Alessio, diciamo, e a pochi altri, anche a Filippo in realtà. Certo, anzi, Filippo Ficozzi, davvero un altro delle colonne portanti, lui è il direttore della fotografia e si è fatto davvero un quattro, sia umanamente che tecnicamente, anche perché siamo partiti davvero con delle risorse miserabili, quindi davvero, anche umane, eh? Sì, sì, però siamo stati, dai, ce l'abbiamo fatta. Sì. Vabbè, ma è il prossimo film? Allora, il prossimo film è... No, allora, no, per ora ho deciso di fermarmi un pochino, c'ho tante idee, però vorrei trovare un minimo di supporto vitale per poterlo fare senza dover schiavizzare intere tribù di esseri umani, ecco. E poi, ora dico schiavizzare, ma insomma, è stato bello trovare delle persone che credessero in un progetto, diciamo una parolona, un sogno, no? Quindi un sogno di fare un cinema tutti insieme. Ed è stato bellissimo vedere tutta sta gente si sveglia all'alba, si parte, si va in montagna, si va di qua, si va di là per girare qualcosa che dopo 3 anni abbiamo visto vedersi realizzare. Quindi io faccio davvero i complimenti a tutti quelli che ci hanno speso un'ora, 2 ore, una settimana per questo progetto, perché sono stati davvero, sono dei pazzi furiosi, però io gli voglio bene da morire. Tenerone, e anche tenero, e anche sensibile. Ma la faccio io gli onori di casa ringraziando tantissimissimo Gwendalina e Alessandro e Alessio per questa scusa. Ah, mannaggia, che onore di casa ho fatto. Nencioni, mi ricordo bene il cognome però. E quindi rilanciamo di nuovo l'invito, ma lo rifaremo anche lunedì prossimo nella trapunta che racchiude gli eventi settimanali per il Cinema La Compagnia il 21 gennaio alle ore 21. E adesso mandiamo il pezzaccio, Satana sei il sì, migliore. Bestia, sì. Grazie ragazzi dell'ospitata, siamo debitori. Grazie a voi e ciao, vi aspettiamo Gabriel. Al prossimo film. Ciao Gabriel Gori! Salala, sei il migliore. Salala, sei il migliore. Rovescio e croci da mattina a sera, sono un esperto di magia nera. Saltavo sempre l'ora di religione, il mio animale preferito al caprone. Invece io ci tenevo a fare notare, visto che mi è stato fatto notare, che la parte censurata della canzone che abbiamo appena sentito era un bel bestemmione. Sì, sì, scusate, sì, era un porco dio, sì, lo possiamo dire tranquillamente, anzi, possiamo anche ribadire, era un bel porco dio. Sì, scusa che te l'avevo un po' coperto, grazie. Va bene, ci attacchiamo a questa cosa grazie al gancio di Nencione. Ci agganciamo a, per parlare di una nuova sala cinematografica neonata, autogestita come piace a noi, in città, a bordo città. In quel di via di Bellagio. In quel di via di Bellagio numero 15. 15, l'abbiamo imparato. Sì, dopo averlo sbagliato 100 volte. E cos'è? Volte. È la magica sala Chinotto. Il suo nome è Chinotto e sarà una sala cinematografica fissa, sì, stabile in quel senso, presso il Next Emerson, dove sicuramente a un certo punto faremo la rassegna Nencionis. Quando morirà la retrospettiva, dice. Abbiamo la retrospettiva Nencioni. Fa la finta morte, tipico, la finta morte e la così molto la punk, sì. Comunque siete tutti invitati e invitate sì, all'inaugurazione. Quando sarà Chinotto inaugurazione? Che sarà il 2 febbraio. Allora, 2 febbraio. Inaugurazione del nuovo cinema. Con cosa si inaugura la sala Chinotto? Si inaugura, allora, prima del però verrà, ci saranno più informazioni a venire. Mm-hmm. Quando il domani sarà. Adesso. Quando sarà, esatto, esattamente quello, brava. Ci sarà anche una performance sul linguaggio fatta da un gruppo di studenti, un collettivo di studenti di linguistica. No, raffinati. Sì, bello, che accompagnerà praticamente dall'ingresso dell'Emerson, quello classico che tutti conoscono quando vanno alle superfeste, per tutto l'Emerson fino ad arrivare praticamente al cinema. Sì, perché dove... è posizionato in un punto un po'... Esatto, un percorso sul linguaggio, sul uso e abuso delle parole e tutte queste cose qua. Sì. Molto bello, pare. Mm-hmm. E a seguire, cioè alle 20:45, orario preciso, inaugurazione del cinema. Verrà inaugurato con una presentazione di un libro alla presenza dell'autrice o della curatrice? Sì, vabbè, curatrice, autrice di questa edizione. Va bene, quello di Martina, no? Esatto, alle 21 la presentazione sarà su Le cospiratrici rivoluzionarie russe di fine 800, sì, Lettere e memorie di Olimpia Kutuzava Cafiero. Un bellissimo testo che tra l'altro credo sia stato anche pubblicizzato, presentato alla scorsa edizione del Festival di Letteratura Sociale, perché l'autrice, Martina, l'autrice è una così una compagna, è una spesso presente, insomma, nelle edizioni del Festival di Letteratura della Polveriera, e questo non è il suo nuovo lavoro in realtà, però è quello dell'anno scorso, però sta continuando il giro di presentazioni evidentemente, e quindi lo riporta così in questa occasione dell'inaugurazione del cinema, anche qui una figura femminile appunto interessante e sì, che dà... e... Sì. Vado? Posso no, andare? Vada. Ma mi dai il permesso? No, posso andare? Mancherebbe. Ok, vabbè. Perfetto. Quindi, riapitolando, 20:45, inaugurazione del cinema con Taglio del Nastro, ovvio, addirittura, sì, sì. E Brindisi, non lo so, Drago, tutti insieme. Drago con l'unghia di Drago. E alle 21 la presentazione, alle 22 la proiezione del primo film, scelto per vicinanza tematica. Andiamene. È Resistance, la battaglia di Sebastopoli di Sergei Mokritskij. Roba seria. Girato fra Ucraina e Russia nel 2015. Sì. È un film che parla della famosa guerra. Lyudmila Pavlichenko. Che era una cecchina che ha difeso durante l'assedio di Odessa, sì, e Sebastopoli, due città, Sebastopoli, mi pare. Sì. Insomma, era una ragazza ucraina che venne presa, cioè che venne presa, che venne arruolata tra le file per combattere i nazisti. E niente, ne ha ucciso. C'è un bel passaggio, molto significativo. C'è un mini dialogo che era stato preso poi, lo vedete anche penso sui volantini, sulle locandine dell'evento. E con lei che parla con un colonnello, e il colonnello gli fa: e voi chi siete? Sono un cecchino, una donna cecchino. Nel nostro paese le donne combattono in guerra insieme agli uomini. E quanti uomini hai ucciso? Nessun uomo, solo fascisti, 309. Guarda, 309, well, attenzione. Quindi molto film bene. Che chissà com'è, io non l'ho mai visto. Meno io, devo dire. Pare la pochi l'hanno visto. Pari è un bello. Film russo del 2015, chissà d'azione. Sarà una camarata incredibile. Quindi no, non credo. sì, quindi insomma parte parecchio alta, insomma parecchio alla grande questa nuova sala, e molto contenta, sì, che avrà che, parta a tema, che avrà un'apertura settimanale. Avrà probabilmente un'apertura settimanale, ancora un po' in via di definizione, nel senso che è autogestito, quindi ha sempre i pro e i contro dell'autogestione. E sì, comunque tendenzialmente dovrebbe essere settimanale, appuntamenti settimanali, tematici, e un sacco di cosette. Quindi insomma principio al culturale, esatto, principio al culturale, e vi vogliamo tutti alla, così, all'opening night, dress code, vestito lungo e tutta roba così. E poi soprattutto dovete venire al cinema, sì, al cinema Kino, sì, cinema russo, capita, 8, sa, 8 super 8, vabbè, volevo spiegarlo, va bene, spieghiamogli, un po' condiscendente, ma va bene, dai, scusa, dai, sei scartato. Che volevo dire, ah sì, no, venite, perché il bagno privato del cinema solo vale la pena. È un sogno, è bellissimo, sì, vale la pena, sì, solo per questo, è vero? Il bagno della un'esperienza nonna, sensoriale, perfetto, di casa, bellissimo, sì, è un'esperienza sensoriale, durerà pochissimo, un bagno di cartapesta, avete fatto, dovete fare, no no, è un bagno che c'era già, sì. Okay. Molto dai, bene, vorrei anche ringraziare e fare i complimenti a tutti quelli, tra cui Dlago, ma non solo. Che ma quanti complimenti gli fate a Dlago sempre, oggi? Troppi, ma poi infatti, guarda, cioè, che lasciato la risposta, questa ragazza. Vabbè, la grandezza va così, va premiata. E per tutti quelli che si sono non lo invitiamo tutti più, e tutte quelli che si sono sbattute per la creazione, perché è stata una creazione fisica, cioè non c'era, quindi questo cinema è stato fatto, certo. C'era lo spazio, ma c'era, non era chiaramente predisposto. Con il supporto, dobbiamo dire, materiale di, del cinema di Castello, sì, della Cineteca di Firenze, devo dire del cinema di Castello, aiutato. E dello Stenzen anche, che ci ha regalato la tende. Sì, delle tende, sì, se non qualcosa, sbaglio. Cioè ci ha dato gli scarti, però viviamo degli scarti altrui, ma questa è la natura stessa del cinema indipendente, e direi da una parte aiuto, da una parte viva, non si sa mai. E quindi dai, tutti il 2 febbraio, sì, 2 febbraio. Quindi gli appuntamenti alle sono 18? 21 no. gennaio, sì, un po' prima, perché questa cosa della, scusa, no prego, no prego, prego, non volevo interrompere, va bene, 21 gennaio per il film di Nencioni e compagni, e 2 febbraio per l'apertura del nuovo spazio cinematografico. Dai, un pezzo, che forse ci abbiamo altre cose in saccoccia. Sempre dalla colonna sonora di Godante Go Go Go. Amo il macino, marica nena, ma sei un putino. Che è un macino, amo il macino, marica nena, ma sei un putino. Che è un macino, amo il macino, marica nena, ma sei un putino. Che è un macino, amo il macino, marica nena, ma sei un putino. Mudo, va bene, sono assolutamente impossibilitato a sentire il volume perché ho rotto. Che cos'hai rotto? Grazie, ho rotto le cuffie, però mi è stato dato un nuovo paio. È colpa dei Molotov, senti che bella. Allora. Or dunque. Allora. Mentre provo a risolvere il danno sì, che ho fatto. A me si è piantato il computer intanto. E così ho un momento di blackout. Ok, penso di aver rotto davvero la. Piantatissimo proprio. No, così. È andato via Nencioni e si è piantato tutto. Ma perché è magico Nencioni? È magico Nencioni forse. È magico. Voi ancora non l'avete capito, ma è magico. Allora, Briccobaldo, ma perché io sto per staccare questo bellissimo sottofondo? Probabilmente perché vorrei mettere su qualcosa di molto molto interessante. È un qualcosa di molto molto interessante che forse possiamo anche introdurre, visto che abbiamo qui tra l'altro due persone che c'erano in quella data fatidica. E quella data fatidica si parla del 4 di gennaio. Voi dove eravate il 4 gennaio? Voi due, Dlago e Dlaghessa. Domanda difficilissima. Sì, io lo so dove eravate il 4 gennaio. Dlaghessa? Dlaghesia. Non associamolo in realtà, non associabile. Allora, lei è una principessa. Abbiamo un audio di una che ci parla da Sanfrediano. Sanfrediano è un quartiere, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, che sta subendo dei grossi cambiamenti. Perché c'è un gruppo di persone molto attive che stanno lavorando sul quartiere e sugli spazi del quartiere per, diciamo, plasmarli. E l'ultima azione in questa direzione è stata quella del 4 di gennaio, quando è stata presa una stanza, liberata la famosa stanza bimbi di Piazza Tasso. È quella stanza con la porta a vetri, che è proprio sull'angolo fra Piazza Tasso e Via del Leone, che è una stanza della cittadinanza, va bene, che il quartiere 1 ha sempre, diciamo, in passato ha dedicato al bambini, ai laboratori, esatto, diciamo, all'uso per l'infanzia, che però poi è rimasta chiusa e vuota per ben 3 anni, nonostante che sia uno spazio praticamente rimesso a norma. Era stato chiuso proprio perché non era sicuro, certo. Sono stati fatti dei lavori, non sono stati ultimati, è stata chiusa, ma c'è tutta una grande stanza con dei servizi igienici, c'è anche un cortiletto fantastico che affiaccia sulla piazza, sì. con discesina per entrare perfetta per andarci con lo skateboard da bambini. Esatto. Infatti, che è successo? Il 4 gennaio c'è stata una giornata. No, il 4, scusa. Il 6 gennaio, giorno della Befana, c'è stata la Befana della stanzina, che è stata una giornata molto bella. Baciata dal sole, un sacco di bambini, un sacco di mamme, nonni del quartiere che hanno fatto socialità e hanno ripreso in mano quelle stanze. Ecco, ci sono poi fra l'altro delle curiosità su questa festa della Befana, perché c'è stato anche una sorta di conflitto fra due feste, una che era quella appunto lanciata dal laboratorio di Laddarno insieme all'occupazione di Leone e a tutte le persone, abitanti del quartiere, attive nel quartiere, e appena questa cosa è venuta fuori è comparso un altro evento, sempre per festeggiare la Befana, per l'appunto proprio lì nella accanto, stanza. Lì accanto, sì, doveva essere nella stanza. Era una cosa lanciata dal PD, poi non è stata approvata dal partito, dalla sezione fiorentina del PD, quindi c'è stato un po' di confusione, chissà perché, ce lo possiamo immaginare, ma ce lo possiamo solo immaginare. Comunque la festa poi è andata bene. Ora, per l'appunto, davvero è andato via Nencioni e si è piantato il computer. Volevo quantomeno leggere il programma, però dai, ascoltiamoci la registrazione e poi se si sblocca. Sì, approfitto anche per introdurre che infatti oggi ci hanno comunicato i compagni di Via del Leone, in particolare sentiremo Melissa che ci ha mandato poco fa un audio che, visto che siamo alla trapunta e annunciamo gli eventi della settimana, domenica di questa settimana, un'assemblea pubblica proprio in Piazza Tasso a seguito di quello che è successo nei giorni dopo la Befana, ovvero che il comune è andato alla zittina a chiudere bene bene il posto che era stato riaperto dalla cittadinanza. Ecco, su questo, su quello che è successo e quali saranno i prossimi giorni e anche cosa è successo oggi, ed è per questo infatti che i compagni non sono qui direttamente con noi, ascoltiamo l'audio che ci è stato poco fa mandato dai compagni di Via del Leone. Dai, notizie calde su Radio Wombat. Viva Via del Leone. Sì, abbiamo annunciato, ma c'è ancora 7 secondi. Sì, c'è 7 secondi, ma lanciamo. Fra l'altro, c'è stato anche un benefit per un audio lab in Via del Leone, quello che fra poco verrà costruito. E quindi, insomma, è un'ottima occasione per musicisti e musiciste fiorentini e fiorentine per riuscire ad avere uno spazio senza dover pagare i vaini. E poter produrre, autoprodurre musica e socialità. Viva! Sentiamo. Dai! Ciao a tutte e a tutti, sono Melissa di Via del Leone e ora vi racconto cosa sta succedendo con la stanzina dei bambini. In questi ultimi mesi si è formato un comitato di quartiere a San Frediano che racchiude delle realtà politiche ma anche dei singoli cittadini, che si chiama Comitato di Laddarno. Vi invito a seguirlo su Facebook. Come comitato abbiamo fatto diverse iniziative, in particolare su Piazza Sasso, che è una piazza a cui noi teniamo molto, essendo il cuore, un centro vitalissimo del nostro quartiere. E in Piazza Sasso, in particolare, nell'angolo, se la conoscete, dove c'è il murales per Bollo, c'è una stanzina chiamata la stanzina dei bambini, perché era stata utilizzata negli anni come dopo scuola per i bimbi del quartiere. Questa stanza è chiusa da 3 anni a causa di problemi di norme, e noi abbiamo deciso dopo 3 anni di riaprirla. Perché? Perché queste norme, sono stati spesi molti soldi del quartiere per rimetterla a posto, sono stati fatti dei lavori, e quella che manca sostanzialmente è una firma, e oltre, forse non si è ben capito, a un abbassamento del tetto del bagno, ma insomma si tratta di lavori minimi, e quindi a noi pare evidente che l'intento sia di base di tenere un posto che potrebbe essere aperto al quartiere, a tutte e a tutti, chiuso. Sicché come comitato di quartiere abbiamo deciso di riaprirla, e l'abbiamo fatto il 4 gennaio in vista della festa di Epifania Popolare, che poi si è tenuta il 6 gennaio, lunedì 6 gennaio, ed è stata una festa partecipatissima. C'erano genitori e bambini anche di altri quartieri. Abbiamo dipinto il muro della stanza con le mani dei bimbi, abbiamo giocato, abbiamo ballato. È stata una giornata di vittoria, dove negli occhi della gente leggevi proprio la felicità del fatto che un posto come quello, che è un posto bellissimo perché è una stanzina con un cortile molto grande, una parte dove addirittura puoi fare l'orto, che è un posto bellissimo, così fosse riaperto. Quindi questa sicuramente è stata una vittoria per il quartiere, per noi, per tutte e tutti quanti. E semplicemente poi cosa è successo? Ovviamente è successo che il consigliere di quartiere, il presidente di quartiere, Sguanci, ovviamente del Partito Democratico, non gli è tornata molto questa cosa. Sguanci è famoso per essere un po' la marionetta di Nardella. A Nardella non è tornata ovviamente questa riapertura, perché sia mai che vengano riaperti degli spazi per il quartiere. E quindi pochi giorni dopo, giovedì, quando noi ragazzi di Via del Leone stavamo andando ad aprire la stanzina, ci siamo trovati degli operai del comune, lo stesso Sguanci e 3 poliziotti della municipale in Borghese, che hanno sfondato di base la stanzina, sia la porta che il cancello, hanno cambiato lucchetti e serrature. Questo a noi pare evidente come un'evidente mossa di conflitto nei nostri confronti, per quanto ovviamente il signore Sguanci ci vorrebbe far credere di essere dalla nostra parte. E proprio per questo motivo noi ci siamo presentati oggi in Consiglio Comunale per chiedere, durante il question timing, un momento del Consiglio in cui possono essere fatte delle domande agli assessori, per chiedere appunto cosa ci vogliono fare con quella stanzina, perché è chiusa, che firma manca, per insomma interrogare e fare pressione rispetto alla questione della stanzina. Cosa è successo? È successo che l'assessore che doveva risponderci non si è presentato, anzi si è presentato e poi è andato via, e che è finito il tempo del question timing, e quindi non abbiamo potuto fare le domande, ma soprattutto non abbiamo potuto avere le risposte che volevamo. Questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che il comune non è interessato alle reali esigenze della gente del quartiere e dei quartieri. E sicuramente per noi però non è una sconfitta, non sarà una sconfitta, non ci facciamo certo chiudere le porte da questi soggetti. La stanzina verrà riaperta nei prossimi giorni, vedremo le modalità, e noi siamo pronti a destinarla all'uso che noi vogliamo, ossia a un uso polifunzionale in cui tutte le assemblee, tutte le associazioni di quartiere possono avere il proprio spazio e poterla tenere aperta, poterla tenere viva, senza forme di clientelismo e soprattutto tenendola aperta. Quindi invito tutte e tutti a partecipare il 19 all'assemblea pubblica che riguarderà proprio la stanzina e si terrà in piazza Tasso. Bene, questa non la sapevo, il 19 in piazza Tasso l'assemblea pubblica per la stanzina. Sì, è stata decisa oggi, evidentemente anche a seguito di quelle che sono state le non risposte ottenute in consiglio comunale. Comunque lo Sguanci è famoso. Scusa, eccoci. Sbagliato. Appena sente Sguanci, parte, non ce la può fare a sostenerla. No, perché Sguanci era famoso anche per un'altra cosa. Non so se vi ricordate la citazione di Sguanci, non solo no. Per le cascarpe di Nardella. A un certo punto, erano circa un paio d'anni e mezzo fa, disse testuali parole: è perché comunque Mussolini ha fatto anche delle cose buone. La famosa frase è stata detta anche dallo Sguanci, sì. Compagno Sguanci, seguì tutto uno scandalo compagno all'interno Sguanci. Del PD, e ciao, poi buona, tutto è andato tutto appianato, tutto a posto, tranquillo. Anche il mostro di Firenze ha detto buongiorno a qualcuno qualche volta. Eh sì. Vabbè, comunque Mattaria. Continueremo a seguire i compagni e le compagne di Sanfrediano, perché stanno lavorando veramente bene tanto. La piazza e il quartiere ha bisogno di quella stanza, è del quartiere, cioè non è che ha bisogno, è già. L'amministrazione dovrebbe solo amministrarla, non possedirla, come invece è il suo solito fare. Sì. E poi questa cosa dei voti, questa cosa di question time, finisce il tempo, c'è sempre una scusa pronta per tappare la bocca oppure per non farla aprire a qualcuno. È così, la democrazia, che vuoi farci? Non ci sorprende, ma è evidentemente una gestione della città e del potere che ha dimenticato per cosa dovrebbe stare lì. Ebbene sì. Senti, vecchio mio, sono le 18:01, forse è l'ora di chiudere, Forse è l'ora di chiudere e a risentirci lunedì prossimo. No, ma c'è un pezzo prima. Attenzione, aspettiamo. Basta. Ecco, momento di raccoglimento. Dai, sì, che cos'è? C'è una perla, una flash news from Australia. Ah, Uria. Giusto. No, questa non possiamo scordarcela. Dai, vuoi tirarla te? No, datela. Non c'è, aspetta, che carica. Ecco. L'anticipo? Non è così flash questa news. No, è una slow, è la connessione news. Che è molto accetta i cookie. Accetta. No, non accettare troppo tardi. Dai. Va bene. Non c'è tempo, va detto. Titolone. Dai. Davvero i wombati stanno aiutando gli altri animali a salvarsi dagli incendi in Australia? E poi c'è un articolo. Che cosa dice? Nel weekend ha avuto decine di migliaia di condivisioni e un tweet che raccontava una storia piuttosto sorprendente sugli incendi che da settimane stanno devastando l'Australia, causando enormi danni agli ecosistemi e alla fauna locale. La storia riguarda i wombati, marsupiali australiani, lo sappiamo, australiani simili a grosse marmotte, solitamente molto ostili agli intrusi, che sarebbero stati osservati mentre ammettevano nelle loro tane sotterranee animali di altre specie per offrire rifugio dagli incendi. Bravi. In certi casi, diceva il tweet, i wombati li avrebbero addirittura guidati alla salvezza conducendoli sottoterra. Ma sì, è questa la natura. Tutto questo è confermatissimo, vero? Sicuramente questa è la natura del wombat. Post, portare la gente sottoterra. È così. E questo è anche il nostro compito, forse, se non ve lo siete scordato, Comunque, sì, compagno, sì, Wombat, sì. A me mi è piaciuto un sacco, questa cosa. Vero. Che bellissima notizia. E a proposito di andare sottoterra, allora io metterei una canzone e poi un'altra canzone e ci prendiamo ben 10 minuti di sforamento. Intanto, a proposito di andare sottoterra, io metto una canzone del mio gruppo preferito. Oh, Popix. Sì. No, loro sono il mio secondo gruppo. Sì, porno riviste, allora. Sì, la prosecuzione, mentre la sto cercando perché ovviamente Google non la conosce. Lascia ben intendere. Questo è certo, qualità è altissima. Esatto, ma perché poi hanno altissima. Sono tutto ciò che è spiegato da Google a noi piace. Ah, trovata. Ciao amici. Ciao. We'll be right back. che fanno buchi nelle montagne, fanno commessi hanno tattiche, spegni le macchine, che sono io la mia nave, in questa epoca di tempeste, e sono me queste mani, e se me questa testa. Va bene, Briccobaldo, non ti puoi tirare indietro. Che commento hai appena fatto, scusa? Nei tombini? No, no, no, hai detto a me la selezione musicale, la selezione di, selezione musicale di Mario piace. Un sacco. Piace un botto. E l'ha detto, sì. L'ho detto Roxy, quando non, nessuno poteva sentire, ma l'ho detto. Lo ripeto nell'etere, che viaggi questa notizia nell'etere. DJ Mario. DJ Mario, stiamo attendendo la prima serata Wombat con... Alla console DJ Mario nei tombini. Sì, sì, sì, sì. Tommy e gli onesti cittadini. Abbiamo sì, sì, DJ sì. Piero, DJ Mario. Oh, DJ Piero. Beh, DJ bello, bellissimo. DJ Piero è il mio DJ preferito. Un sacco di cose preferite. Il tuo mentore. Sì, sì. Bene. Ci salutiamo? Ci salutiamo forse? Ma io vi vorrei lasciare con un pezzaccio. Dai. Che abbiamo sentito venerdì scorso. Se ne va il microfono. Allora, oggi ho rotto due cose. Ho rotto le cuffie e sto per rompere il microfono, che però forse non ho ancora definitivamente spazio. Sì, mi emoziona. Dai, tanto Cassa Wombat è piena, vai, sì, spacca, rompiamo tutto, tutto e andiamo nei tombini. Sfonda il computer nuovo, lancia i microfoni, spacca le aste. Allora, questa formazione di oggi è pericolosa, cioè, questo fuori controllo, questo quartetto non ci lascia. È Nencioni che ci ha messo in brillazione. Nencioni, è merito di Nencioni. Poi ci hanno fatto arrabbiare i compagni da Leone con queste notizie, allora. Però, non è colpa loro, hanno fatto incazzare il comune. Ciao Sguanci. Allora, noi vi lasciamo con una canzonciona di un super mega gruppo che è venuto a Firenze tante volte, l'avrete sicuramente sentito, fra Polveriera, l'Emerson e così via. Sono i Jackson Pollock. Oh yeah. Noi li amiamo. From Bologna, tanto amore per loro. Tantissimo. Posso fare una marchetta per loro? Il 30 gennaio risuonano non a Firenze ma a Prato. Molto vicino. A Grafis, perché sono tre giovani. Quindi accorrete, è una bella esperienza. Noi ci saremo di certo, sì, in effetti. Sì, sì, sì, sì. Salutiamo ora, salutiamo dopo. Salutiamo Dante, però, perché go, salutiamo go, Dante, go, go, sì. Go. Ciao Dante. Vabbè, vai, salutiamo vai, tutti vai, ora, vai, allora vai, siamo vai. Molto contenti, ci lasciamo con Dante. Ciao, va bene, ricordiamo un po' allora dove ascoltarci. Abbiamo le repliche che vanno in onda il martedì e il mercoledì. Abbiamo i social, Facebook, Twitter, sempre Radio Wombat Firenze, noblogs.wombat.org e infine... Mail. Posta wombat@siberia.net. Li abbiamo detti tutti senza neanche scriverceli, per questo li sbagliamo ancora. E niente, detto questo, a lunedì prossimo. A lunedì prossimo. Wombat. Venite nei tombini con noi. Guarda che l'ha rimesso. Tombini a Vaiano. Volta scorsa ce l'avevamo con Vaiano. Ma a periodi. A periodi. Vaiano. Lunga vita al Wombat. A lunedì. Rassegna eventi. Scusate, non c'avete mica 100 lire? Naturalmente. Ah, le tenete voi? Naturalmente. Ecco, tenetele bene, mi raccomando. Naturalmente. Ho fatto anche lo sviso finale. Ragazzi, oggi sono tutto un brivido, ho conosciuto un vero uomo. Naturalmente. Io figli del culo, vero? Ma scusa, ma c'è 100 lire? Buona.